Epilog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Epilog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare due foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le due foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati? 25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it. Sì, ma mica che ci venite così, semplicemente che dici voglio venire, no. Ne verranno 250, sono tanti 250 ascoltatori. Me li sciropperò tutti nella notte del 25, volentieri, ma c'è sempre una prova di ammissione. Come è già accaduto quando siete venuti a vedere la mostra di Picasso, quando vi siete travestite da Barbie, quando siete andati assieme a me a vedere quelli che erano i pupazzi della Pixar, questa volta vedrete cos'è l'evoluzione, toccando con mano i nostri progenitori, o perlomeno i calchi esatti di quello che erano i nostri progenitori, vedere la fila dei crani, coloro che ci hanno preceduto nella storia dell'evoluzione. Insomma, capiremo esattamente chi siamo noi e le sorprese saranno tante. Perché in realtà non siamo tutti la stessa persona, è come se fossimo nati tutti nella stessa capanna. E altra grande sorpresa, siamo tutti neri. All'origine eravamo tutti neri, questo oggi farà rabbrividire qualcuno. Come no? Io, quello che mi aveva scritto l'altro giorno, sei la vergogna della razza bianca perché hai leccato il culo a Bello Figo. Beh, oggi vi renderete conto che Bello Figo e io siamo fratelli, come fratello vostro, come qualunque altra persona, che siamo tutti uguali, nasciamo tutti dallo stesso capostipite, più o meno. Beh, come si fa ad accedere a questo momento fantastico che cambierà la vostra vita? Beh, mandando un paio di foto a melog@radio24.it. Due foto, una del vostro passato, tutti le avete le foto. I profili Facebook sono pieni di foto delle fanciulle da bambine. Avete comunque scansionato, digitalizzato chissà quante foto di voi in fasce, ai tempi delle scuole elementari, delle medie. Basta una foto rappresentativa del vostro passato e una foto dell'attualità. Non mi interessa capire se siete più o meno rughe, siete più o meno belli, più o meno brutti. Dovete raccontarmi in questo arco di tempo tra due foto come vi siete adattati all'ambiente, perché la vera evoluzione è questa. Noi ci evolviamo nella nostra singola equazione individuale adattandoci all'ambiente che abbiamo intorno, adattandoci felicemente, non soggiacendo, non soccombendo. melog@radio24.it, l'ho aperta qui davanti. Chi mi manderà le prime foto vincerà il privilegio di essere accanto a me nella visita guidata alla storia dell'evoluzione umana. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Ci serviva una maniera kitsch per entrare nel concetto di evoluzione, visto che quello che avete studiato a scuola, ammesso che ve l'abbiano insegnato bene, perché nella scuola italiana ci sono molte lacune, ci sono ancora dei libri di scuola che fanno vedere che all'inizio c'è un ditone che esce dal cielo e improvvisamente nasce l'umanità, oppure ancora vedere la scimmia, l'uomo che deriva dalla scimmia, ancora in questo senso viene spiegata l'evoluzione, è un pochino più complesso, perlomeno quello che al punto attuale la ricerca scientifica ci può dire. Vi faccio intanto capire come funziona il nostro gioco, la maniera per partecipare a questa serata. Sarà una serata, guardate, sconvolgente. Io che ho fatto una visita anticipata alla mostra su Homo Sapiens al MUDEC di Milano, ho visto cose che non immaginavo. Poi sono una persona che più o meno si informa di quello che accade al mondo, anche perché la ricerca è sempre attiva, anche perché le scoperte fatte ultimamente, sono stati scoperti nuovi uomini, nuove teste, nuovi pezzi umani che non sapeva che esistessero, e mancava un pezzetto, e questo pezzetto via viene ricostruito per capire chi eravamo, da dove venivamo. Vi faccio capire come funziona invece il gioco. Già ci ha scritto Maggi, che è una nostra ascoltatrice fedelissima, ci ha mandato due foto. Una foto di lei avvenente fanciulla, avrà 20 anni, con lo sguardo perduto verso un orizzonte impreciso, con la camicetta tirata giù con la spalla nuda, come funzionava molto negli anni 80, si vedeva nelle soap americane che andavano le prime televisioni commerciali. E quindi con questa camicetta lei guarda e spera, e in sottoscrive: anno 1980, davanti a me l'uomo dell'eterno amore. Ero felice davanti all'obiettivo fotografico della mia vita, vita lieta e lieve e felice. Poi la foto di oggi, affascinante donna con un orso bianco alle spalle, non si sa perché, vive in una casa dove c'è un orso bianco, e forse è già la mostra di Homo Sapiens, anno 2016, in questo gioco dell'oca della vita, e non si capisce se l'oca della vita sia una sua maniera per autorappresentarsi, sono andata avanti e tornata indietro, ho preso tutte le caselle, annusato fortuna, nutrito felicità, attraverso cedevoli ponti, scesa in oscuri pozzi, frequentato prigioni di neve, abitato labirinti, liberata da scheletri, oggi sono finalmente arrivata a me. Maggi è arruolata fra i 250, è la prima e sarà con noi il 25 sera al MUDEC. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Stefano Morigi ci accompagnerà anche lui in questa visita. Lui è un filosofo della scienza, quindi la cosa che lui vogliamo sapere è perché è così difficile oggi, parliamo del nostro paese, è capire cosa sia l'evoluzione, il concetto di evoluzione. Intanto vorrei ricordare un fatto: che qualche anno fa un ministro della pubblica istruzione ha tentato di estromettere dai programmi l'insegnamento dell'evoluzione, perché evidentemente era percepito come troppo duro da assorbire da parte delle menti dei ragazzi. Quindi c'è già un atteggiamento ostile nei confronti di questa teoria, di questo insieme di teorie, forse dovremmo dire, da parte dell'istituzione. Questo certamente non aiuta da un lato, e dall'altro dimostra come il nostro paese, ancora fortemente arroccato su posizioni ideologiche, mitologiche e religiose, fatichi a fare i conti con una teoria che pian piano, un lungo ragionamento, come diceva un grande biologo, ci ha raccontato davvero da dove veniamo e come abbiamo fatto ad arrivare qui dove siamo. Dopodiché ci sono una serie di questioni, entrando un pochino più nel merito, che rendono la teoria dell'evoluzione abbastanza controintuitiva o comunque difficile da accettare. Per esempio, per alcuni, per lo più religiosi, ma anche no, è difficile, come dire, venir meno quella differenza ontologica, cioè l'idea che l'uomo sia qualcosa di più, di diverso, di meglio dal punto di vista qualitativo rispetto agli altri animali, le altre specie animali, e scoprire invece che in qualche modo siamo tutti parenti, ecco, più o meno lontani, ma siamo tutti parenti. Questo a me rassicura molto, devo dire, altri invece si vedono gettati in uno sconforto da cui non riescono a venire. Allora, fermo un attimo, 800240024, cosa sapete voi dell'evoluzione? Qual è il vostro concetto? Da dove veniamo, secondo voi? Ditelo chiaramente, perché l'ascoltatore che mi ha appena scritto la pensa così. Io, fratello di bello figo di uno sporco negro, non esiste, sono bianco, bello e muscoloso, come se i negri fossero macilenti. Comunque, qui l'unico che non si è evoluto sei tu, Nicoletti, sembri un cercopiteco, cioè sembro una scimmia, quindi derivo dalla scimmia. Professor Guido Barbugliani, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a Stefano Morigi. Allora, Guido Barbugliani è un eccellente, illustre genetista di fama mondiale, è un saggista, docente di genetica all'Università di Ferrara, autore del libro Gli africani siamo noi, la terza. Risponde al mio ascoltatore che dice che lui è bello, bianco e muscoloso e nulla a che fare con il rapper di origine africana, che oggi fa molto discutere, e mi dice che sembra una scimmia. Quali sono i punti, secondo lei, deboli in questa affermazione che noi rispettiamo in quanto un punto di vista? Ma guardi, il punto forte è l'estrema autostima che deriva da queste frasi, che io ammiro moltissimo. Insomma, una persona con un'autostima così farà probabilmente strada nella vita. E il punto debole è che in realtà le nostre ossa, le ossa fossili e il nostro DNA ci raccontano una storia diversa, e ci raccontano la storia di un piccolo gruppo di africani che 70.000 anni fa forse ha fatto la scelta giusta, è emigrata e ha colonizzato tutto il pianeta. Sull'aspetto, diciamo, del tratto scimmiesco, vogliamo definire una volta per tutte, da un punto di vista genetico, visto che una delle cose che maggiormente crea raccapriccio di fronte all'idea che esista una teoria evoluzionistica, io non potrò mai pensare che alla mia origine ci sia una scimmia. Ma alle sue origini non c'è una scimmia, ecco, in realtà, esattamente. Nel senso che se noi pensiamo alle scimmie di adesso, anche loro sono derivate da degli antenati comuni, però insomma ormai lo si sa fin da prima di Darwin, da Lamarck, no? Che ha detto specie diverse hanno origine con cambiamenti da antenati comuni, cioè confrontando gli scheletri dei vertebrati ci si è resi conto che ci sono tante cose in comune. Noi abbiamo una cassa toracica che assomiglia molto a quella dei pesci, a quella di certi anfibi, e quindi adesso dal punto di vista scientifico non è più oggetto di discussione il fatto che le forme viventi oggi siano evolute da delle forme preesistenti di cui troviamo le ossa a livello fossile. Ci sono naturalmente molte domande, e come diceva prima Stefano Morigi, convincere la gente che l'evoluzione è stata così potente oggi è difficile, come all'epoca di Galileo era convincere la gente che la Terra fosse una sfera e non fosse piatta. Però siamo dotati di cervello, e facendo funzionare questo cervello un po' alla volta ci possiamo arrivare tutti quanti. Sentiamo Vincenzo. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Non mi ricordo il nome. Nicoletti. Sì, Nicoletti. Io volevo dire semplicemente, io credo che siamo in metà alieni e metà umani, diciamo. Alieni in che senso? Alieni da cosa? Nel senso che gli alieni hanno trasformato quelli all'epoca, gli ominidi, diciamo, con il DNA hanno fatto un esperimento e siamo venuti poi noi, l'Homo sapiens. Se no saremmo rimasti ancora a livello, appunto, diciamo, di forme primordiali. Quindi l'innesto, sì, del DNA è avvenuto per mano aliena, secondo lei? Sì, secondo me sono convinto di questo io. Dove l'ha letto questo? Solo per capire le fonti? No, io non l'ho letto, sono convinto io perché anche ho visto io, quando ero piccolo, ho visto un UFO. Ah, ecco. E quindi sono convinto che esistono gli UFO. Ah, va bene, questa è una sua esperienza personale, non la posso mettere in dubbio. Allora, professor Babuiani, sull'idea che circola comunque nella fantaletteratura ai confini della scienza e della realtà, che a un certo punto sia avvenuto qualcosa di inspiegabile nella storia della nostra evoluzione, per cui da delle forme primordiali si è evoluto l'uomo come noi più o meno oggi ci consideriamo di essere. In realtà la scienza cosa ci dice a proposito? La scienza ci dice che è stato un passaggio molto complicato di cui ancora molti aspetti ci sfuggono, perché non dimentichiamoci, noi adesso stiamo parlando della possibilità di ricostruire milioni di anni di storia sulla base di pochissimi dati sulle persone che vivono oggi e di ancor meno dati sulle persone che sono vissute in passato. Quindi non dobbiamo aspettarci dalla scienza delle risposte assolute, quelle risposte vanno cercate nella religione se uno ha bisogno di certezze assolute. La scienza riesce a ricostruire dei pezzi di questa nostra storia, ed è davvero miracoloso che ci riesca, visto la pochezza delle informazioni. Indubbiamente una domanda molto forte è: ma perché tutte queste caratteristiche ce le abbiamo soltanto noi, quella di saper parlare, il linguaggio articolato, ma non solo quella, perché se vogliamo fare un elenco di attività tipicamente umane, dall'agricoltura al bungee jumping fino alla zootecnia, ce n'è per ogni lettera dell'alfabeto. Anche la capacità di elaborare la metafisica, ad esempio, una capacità umana, almeno per quello che sappiamo noi. Non lo sappiamo, se anche le mosche, i moscerini della frutta hanno il loro universo, i loro dei, non lo sappiamo, però noi immaginiamo siamo soltanto noi. Io penso che non ne abbiano, perché il pensiero simbolico compare piuttosto tardi, e questo lo possiamo vedere dai reperti archeologici, e dovrebbe essere una caratteristica soltanto umana. Certo, ci sono molte forme animali che hanno delle forme di comunicazione anche sofisticate, pensate alle api che riescono a segnalarsi la posizione dei fiori attraverso il loro volo. Sono argomenti ancora complessi su cui la scienza non ha una posizione chiara, però bisogna dire anche che al di fuori della scienza non si trovano delle informazioni particolarmente convincenti. Cioè, io rispetto naturalmente i punti di vista di tutti, compreso quello dell'ascoltatore che ha telefonato prima, ma certo evidenze di interventi esterni sul nostro DNA non ce ne sono. Cioè, noi abbiamo al 98% lo stesso DNA degli scimpanzé. Qualcuno mi dice anche dei moscerini, cioè, mi spiega perché abbiamo il DNA dei moscerini? No, non abbiamo abbiamo il DNA dei moscerini, ma ci sono certe cose che le cellule dei moscerini e le nostre cellule fanno allo stesso modo. Che vengono usate infatti per la sperimentazione, le drosofile, adesso non so bene cosa sia. Ah, certo. No, allora, ci sono due livelli. Uno è che alcune cose le nostre cellule, le cellule delle piante, degli animali, le fanno allo stesso modo. Quando una cellula si divide per diventare due cellule, bene o male il meccanismo è lo stesso indipendentemente dall'organismo in cui questa cosa succede. Poi ci sono delle somiglianze ancora più interessanti, e quindi quando si sperimenta un nuovo farmaco molto spesso si utilizzano i topi perché hanno un metabolismo simile al nostro, e quindi se il nuovo farmaco non fa male al topo, sperabilmente non farà male neanche a noi. Questo è bene dirlo, professore, che proprio giorni fa a Milano c'è stata la solita gazzarra, assassini semplicemente contro chi fa sperimentazione animale, che ancora è l'unica maniera che abbiamo per testare certi farmaci. Potendo ne faremmo tutti a meno, non si tratta di vivisezione, non si tratta di torture volontarie, è stata l'unica maniera per testare dei farmaci che salvano delle vite. È arrivata la primo set di foto dell'ascoltatore Andrea, manda due foto, un bambino che guarda verso il cielo attraversato da fulmini o da scie chimiche, non so bene, e lui adulto che guarda verso quel bambino. E il paradosso, che da bambino sembrava guardasse verso il futuro, adesso che è grande, ha 28 anni, sembra guardare verso il passato. Ci fermiamo un istante, riprendiamo fra un minuto. Festeggiare, regalare, illuminare, cantare, gioire, incontrare, ritrovare, brindare, mangiare, abbracciare, baciare. Radio 24, libera la voglia di Natale. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Melog, cronache meridiane. Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Melog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare due foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le due foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati? 25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it. Molto bene, sto contando già decine di persone che hanno mandato alla mailbox melog@radio24.it le loro due foto, alcune molto notevoli. Fra è un chitarrista, manda la foto, lui da bambino già aveva la sua chitarretta elettrica e adesso da grande fa il concertista, sarà dei nostri, come sarà dei nostri un restauratore che mi scrive che in realtà è nato e cresciuto in Svezia, anche se risiede a Cremona, e ci manda la sua evoluzione in liutaio, verrà anche lui da noi. Elisa mi manda le sue foto. Le foto, stranamente, da ragazza era una ragazza normale, adesso che è adulta ha i capelli viola, poi ci spiegherà perché, verrà anche lei tra di noi. Andrea mi manda due foto, Andrea già l'ho detto prima, è quello che guardava il cielo, lo sto facendo a tempo reale. Un altro, Gianfranco, è diventato un consulente finanziario, si occupa di rimborsi bancari laddove risultassero delle irregolarità, però quando era bambino che accompagnava la mamma in banca gli faceva schifo l'ambiente della banca, mette la foto di lui bambino in banca, dice mamma mia che orrore, mai nella vita, e oggi che fa il consulente finanziario. Ci sono moltissime altre, vedo che state capendo il concetto della propria evoluzione attraverso la capacità di adattarsi. Questo bambino che mai nella vita avrebbe detto che avrebbe fatto il bancario, poi si è adattato in realtà a quello che era il miglior lavoro per lui. Vedo che mi arrivano molti messaggi di persone molto informate, probabilmente hanno esempi che non ho noi. Mi scrive un ascoltatore, Lucio, dice caro Nicolino, come Totò che sbaglia i nomi, dice Monsignor Trombetta, se avessi letto i libri di Mauro Biglino, traduttore a suo tempo per il Vaticano della Bibbia, sapresti come me che gli alieni sono venuti e hanno creato l'Homo Sapiens. Noi sì che siamo informati, ma l'ho anche intervistato una volta. Un signore fa una interessante esegesi biblica dove dice che nella Bibbia in realtà ci sono degli elementi che fanno capire che Mosè, Aronne e tutti gli altri erano alieni e maneggiavano il DNA come oggi noi maneggiamo le noccioline quando andiamo al cinema. E vabbè, è un modo di pensare. L'evidenza scientifica sta da un'altra parte. Nicoletti usi il termine scientifico in maniera inappropriata. È molto semplicemente ricostruzione storica su basi archeologiche quello che fai te. Vabbè, vediamo un po'. Marco, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Sì. Ascolti, io penso che l'autorità di uno scienziato, o meglio l'autorevolezza, non dipenda dal fatto che abbia una qualità, un titolo, ma dipenda dalla credibilità degli argomenti che sostiene. Ma la credibilità da cosa è data? Da cosa è data la credibilità? Dagli argomenti che sostiene, dalla loro ragionevolezza, dal fatto che siano fondati. Ma lo decide lei o lo decide un'evidenza scientifica? Cioè una comunità. Lo decide l'evidenza scientifica. E allora ritorno al discorso: una persona ha tanti titoli quando l'evidenza scientifica delle sue teorie gli danno i titoli. No, non è detto, perché se fosse così torneremo all'ipse dixit di Aristotele, che siccome era un filosofo famoso, allora ha dettato per 2000 anni circa la linea su certe questioni filosofiche. Ma l'ipse dixit è l'antitesi del metodo scientifico, scusi. Io sto... Ecco, ma chi ci dice che lo scienziato usi il metodo scientifico? Gliene posso dare un esempio veloce? La comunità scientifica. Sì, ma vede, non sono dei sacerdoti gli scienziati, infatti, perché sennò siamo nella teologia. Ma infatti sono degli scienziati. Posso fare un esempio concreto? Sì, faccio. Ecco, allora, sull'evoluzione, mi scusi, allora sì. È vero che l'ambiente modifica, è vero che ci sono degli incroci genetici fra popolazioni e anche fra animali, ma il problema grosso dell'evoluzione sul piano scientifico è la speciazione, cioè la convinzione che le specie animali si siano originate l'una dall'altra, e su questo non c'è nessuna evidenza scientifica dai fossili che effettivamente si sia passati. Lei cosa fa di mestiere, Marco? Scusi. Allora, io lavoro nel settore legale, però siccome seguo il suo invito a usare il cervello e informarmi. Resti in ascolto, Marco, la metto a confronto col professor Barbuiani, che è un genetista che studia argomenti probabilmente più corroboranti dei miei. Vediamo come risponde al nostro ascoltatore, professore. Innanzitutto sul metodo, la differenza, se mi permette la banalità della domanda, fra una visione teologica e una visione scientifica della realtà. Intanto una visione scientifica non punta alla verità, perché la scienza non può dimostrare delle verità. La scienza può escludere delle ipotesi che si rivelano sbagliate e tutte le altre sono invece compatibili con i dati. L'esempio tipico che si fa è quello della fisica di Galileo e di Newton, che noi sappiamo che era sbagliata, nel senso che oggi c'è la fisica quantistica e la fisica di Einstein, relativistica, che sono più ampie e abbracciano un insieme di fenomeni più vasto di quello che Galileo e Newton riuscivano a spiegare. E così in futuro può darsi che si sviluppi una nuova fisica che per esempio riconcilia le contraddizioni fra la quantistica e la relativistica. Quindi la scienza non arriva a delle verità definitive. Non arrivando a delle verità definitive non ha un tribunale di autorità che possono decidere cosa è vero e cosa è falso. Quello che funziona è appunto il consenso delle persone competenti e delle persone esperte, e quindi in qualche misura gli articoli che uno ha pubblicato e i titoli universitari che uno ha, perché di quello si tratta. Sul tema più specifico che sollevava l'ascoltatore, è vero che la speciazione è un fenomeno complicato, ma è complicato perché la sua durata è molto superiore a quella della vita di chi vorrebbe studiarlo. E quindi non si riesce, se non in casi particolari relativi agli insetti, a seguire il meccanismo di formazione delle grandi specie dei mammiferi, per esempio. Però sugli insetti ci sono degli studi molto precisi che dimostrano come da una singola specie se ne sviluppano due diverse. Per cui l'ascoltatore non mi sembra informato sui temi di cui sta parlando. Marco, è soddisfatto? Al professore ha detto che il metodo scientifico consiste non nell'arrivare a una verità certa, ma nel poter sempre cercare di tendere a questa verità, come mi sembra insegnasse Popper. Allora il professore però nello stesso tempo pretende che la speciazione sia stata provata. Ma si contraddice perché il metodo scientifico... Marco, non è che voglio difendere il professore. Lei fa avvocato, per favore, non, parli delle cose che sanno. Sono persone che una vita studiano qualcosa, non ha detto questo. È stato molto umile e modesto nell'affermare che non bastando la vita di un uomo per studiare un fenomeno del genere, noi sappiamo qualcosa sugli insetti, fine. Non so, alla fine lei cosa vuol dimostrare? Alla fine non sono scienziati, perché fa una trasmissione pubblica? Ma scusi, lei perché non parla di diritto invece parla di scienza? O perlomeno, parla di scienza... Ho accolto il suo invito a usare il cervello a informarmi, e perché in un sistema civile anche le persone hanno il diritto di informarsi pur non avendo il titolo di genetista. Ma informarsi non basta andare in internet a guardare, cioè comprare i libri. E chi dice che io sono andato su internet? Cosa ha fatto lei? E cosa ha fatto lei allora? cosa ha fatto? Ho letto dei testi, mi sono informato. Ma leggere dei testi, leggere i testi e frequentare una comunità scientifica è un'altra cosa. Dedicare ma una vita. Ma che lei sta tornando alla pretesa che la comunità scientifica sia una specie di cenacolo di sacerdoti e che tutti quelli che ne sono al di fuori. Vabbè, senta, Marco, lei ragiona lei per dogmi. Lasciamola così. Non ho detto questo, nessuno dice questo. E mi sembra stato espresso il metodo in maniera chiarissima, lampante. Lei ancora dice classe dei sacerdoti. Dice noi escludiamo delle cose che possiamo escludere e andiamo avanti con i limiti umani che abbiamo, confrontandoci, studiando, ognuno confronta e osserva il lavoro degli altri. È il contrario della comunità teologica, è basata su un principio assoluto e innegabile. La scelta non ha principi assoluti e innegabili, mette tutto in discussione, è pronto a ritornare sui suoi passi. Lei probabilmente ha una sua convinzione, alla fine lei è convinto di qualcosa che gli altri non sanno. Qual è la sua verità? Mi dica, mi consento un'ultima cosa. Guardi che il professore che ha detto, mi sfugge il nome, forse Morigi o il collega, non mi ricordo più, ecco, che ha scritto un testo dal titolo Siamo tutti africani, è lui inficiato da un pregiudizio ideologico, perché lui dicendo siamo tutti africani giustifica l'immigrazione di massa in Europa, e quindi questo non mi sembra molto scientifico, dove l'ha detto che lo giustifica? Chi l'ha detto? Siamo tutti africani. Nicoletti, perché è un topos classico di chi è a favore di certi movimenti, diciamo, di carattere sociale. Ma sta facendo delle illazioni ridicole. E allora glielo chieda qual è la posizione del professore su questo tema. E lei invece lei come la pensa? Mi dica come la pensa lei, mi interessa. Io penso che andrebbe gestito il fenomeno in modo ordinato e con dei controlli. Ma cosa c'entra adesso in questo momento un genetista sull'immigrazione? Mi scusi, Perché io ritengo che il genetista nella scelta del titolo abbia suggerito implicitamente una sua posizione. Ma no, è vero. Dentro di lei c'è la pelle nera, è inutile, può anche non piacerle, ma è così. Nei suoi antenati sono uomini neri, le può non piacere, ma è così. Ma questa è un'altra cosa, io pongo un problema di metodo e di merito al genetista. Io sono convinto che il genetista abbia una posizione ideologica e politica che è inevitabilmente, umanamente trasfusa anche nel titolo. Ma scusi, ma se io le chiedo se a lei piace la carne o il pesce, cosa c'entra adesso con quello che sta parlando lei? Lei no, può essere c'entra di... perché lei mi accusa di dogmatismo, ma io ritengo che alcuni scienziati a loro volta sostengano delle tesi che non hanno un'evidenza scientifica assoluta. Ma dove sta scritto? E che però suggeriscono un certo dogmatismo. Cioè lei vuol dire che strumentalmente il professor Barbujani ha scritto un libro sull'argomento a cui ha dedicato la sua vita di studi, capito? Semplicemente per giustificare l'immigrazione selvaggia. No, non mi metti in bocca parole che non ho detto. Prima di tutto, Marco, lasci perdere. Lei è la tipica chiacchiera da bar, può andare avanti fino a domani e continua a pensare quello che vuole, ma chi se ne importa? Ci sentiamo dopo la pausa. Melog, cronache meridiane. 800240024 sono. Sto parlando di evoluzione, ma siamo un paese veramente molto acido, in cui è possibile esprimere serenamente dei concetti. C'è subito il dietrologo che deve dire il perché, per come, per quando. Il nostro ascoltatore dice che in realtà c'è un disegno, al di là del fatto che uno scienziato studi l'origine dell'umanità, per giustificare l'immigrazione selvaggia. Professor Barbujani è ancora in ascolto? Visto che quando ci si confronta con la gente, io sono della teoria opposta a Umberto Eco, se il mondo è popolato di imbecilli, a me oggi, siccome ognuno ha diritto giustamente di esprimere il suo parere, bisogna aver modo di avere a che fare e confrontarsi con tutte le persone. L'ascoltatore insisteva che in realtà la sua è una teoria, diciamo, un po' appiccicata per giustificare l'immigrazione. Guardi, in piccolissima misura lui ha ragione, nel senso che tutti quanti abbiamo un'ideologia, tutti quanti puntiamo a degli obiettivi, ma un conto è questa nostra visione del mondo e un conto invece è quanto seriamente facciamo il nostro mestiere. E quindi sostenere che i dati scientifici, i dati genetici che dimostrano che i nostri antenati 70.000 anni fa stavano tutti in Africa, quelli non dipendono dalla mia ideologia. Direi anche che la polemica dell'ascoltatore è un pochino fuori tempo massimo, nel senso che sono più di 20 anni che Karol Wojtyła, quindi non un marxista, non uno scienziato, ha detto guardate, dobbiamo smetterla con le polemiche sull'evoluzione. L'evoluzione spiega una serie di fenomeni e noi accettiamo questa spiegazione, poi naturalmente c'è un'altra sfera che è la sfera morale o teologica, nella quale invece la scienza non ha nulla di particolare da dirci. Quindi in qualche modo le polemiche di oggi mi sembrano un po' superate, perché anche da parte cattolica si è arrivati ad ammettere che insomma la ricostruzione evoluzione darwiniana della nostra storia è il meglio che la scienza sia finora riuscita a produrre. Stefano Morigi, tu che conosci meglio, frequenti più assiduamente il pubblico della radio, sai che esattamente quello da cui trapela è il sentire comune, un po' quello che galleggia nel nostro paese. Vediamo se riusciamo ad aggiungere qualcosa. Il fatto che siamo tutti africani e all'origine nostra c'è sempre comunque un signore con la faccia nera, non vuol dire che questo va a inficiare nell'idea di una regolata maniera di amministrare il fatto dell'immigrazione. Però vanno separati i due domini, secondo me. Assolutamente. Io credo che il, consentimi termine, siparietto che si è prodotto con l'ascoltatore sia di grande utilità da più punti di vista. Si è mostrato come alcuni concetti fondamentali di che attorno a cosa sia effettivamente il metodo scientifico, così come Guido Barbuiani li ha spiegati, siano difficili da essere comunicati e facilmente sono travisati, come ha fatto l'ascoltatore, che lui sì ideologicamente li ha riletti a suo uso e consumo. Poi, entrando più nel merito, se la scienza e la ricostruzione scientifica della storia di Homo sapiens e dell'evoluzione in generale ha mostrato che tra migrazioni ed evoluzioni c'è un nesso, così come c'è stato, e che per esempio gli studi preziosi di Barbuiani, piuttosto quelli di un maestro di noi tutti come Luca Cavalli Sforza, hanno contribuito a decostruire l'ideologia della razza, ebbene prendiamone atto, perché così è. E se la scienza in questo caso dimostra, decostruendo, che alcune persone cercano disperatamente evidenze per sostenere ideologie spesso violente che non stanno su in piedi, ben venga la scienza non solo come nozioni ma anche come educazione alla comunicazione e alla convivenza. Benissimo, questo è, l'ascoltatore è un esempio esattamente di quello che stavamo dicendo, di come la scienza sia difficile da comunicare, di come la scienza sia al tempo stesso una forma di educazione che dobbiamo cercare di condividere anche con iniziative come la tua. Il fatto che si dica che non esistono le razze umane mi sembra già un motivo di serenità. Non voglio dire ideologicamente bello, buono e cattivo, siamo tutti più tranquilli, più sereni, non ci sono le razze, siamo tutti meglio, almeno su questo siamo parenti. Ikangi, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, l'ascolto. Io volevo intervenire su dire, cioè, una volta quando l'uomo era proprio originale. Lei è del Congo, leggo. Sì, sono del Congo, sì, di Kinshasa precisamente. Quindi? E quando l'uomo era originale, inteso quando l'uomo aveva ancora un buon rapporto con il proprio Dio, quando ognuno stava a casa propria, diciamo, in quei tempi lì sì che eravamo buoni alieni e molto avanzati in quanto intelligenza, percezione della natura, il contatto con la natura era un po' diverso rispetto ad adesso che l'uomo si è un po' allontanato troppo dal cielo. Vabbè, lei che visione ha del mondo? Una visione animista, una visione monoteistica, una visione politeistica, visto che vuole parlare di religione, quindi non va benissimo. Che visione? Monoteistica, perché cioè, io penso che solo avendo un vero con riconoscenza verso il proprio Dio è lì che l'uomo viene proprio ringiovanito in quanto intelligenza, chi va alle terme, chi si fa i trattamenti, chi pensa a Dio, ma va benissimo. Ma questo secondo lei confligge con quello che stiamo dicendo noi sull'evoluzione, sull'Africa come culla della civiltà? Lo so perché voi mi siete basati un po' sulla scienza. Ognuno si basa su quello che reputa più giusto. Lei si basa sulla religione, quindi in bocca al lupo. Lei è il suo Dio, è il nostro Dio, a tutte le persone che in questo credono. Mi stanno arrivando tantissimi messaggi mettendo in contrasto, come se fosse sullo stesso piano, la teoria creazionista, ma può convivere benissimo, può pensare benissimo. Dio, Adamo ed Eva, il fango, il soffio, il Fiat Lux, via dicendo, tutto quello che vuole. Però questi sono dati che comunque non vanno contro. Stefano Papi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Stefano Papi è il coordinatore scientifico della mostra Homo Sapiens in corso al MUDEC di Milano, che ci guiderà in quella giornata. Vediamo se lei riesce a dare una sintesi di quello che gli ascoltatori scopriranno quel giorno. Lei, come vede, non so se era già in ascolto all'inizio, solo parlare di evoluzione ha scatenato comunque una dialettica anche molto, molto vivace a un certo punto. Perché? Perché sono concetti che ancora non si mandano giù. Se noi sintetizziamo che in quella mostra si evince che eravamo tutti neri e che l'uomo si evolve proprio migrando, probabilmente creeremo ancora più scompiglio, o sbaglio? Sì, il tema è caldo, è sempre stato caldo fin dall'inizio della storia. E in mostra raccontiamo proprio questo, quindi un po' l'invito è di venire a vedere, a toccare con mano dove si può tutto il racconto che abbiamo fatto in radio. Ovvero chi visiterà la mostra insieme a noi, o comunque chiunque voglia visitarla al MUDEC, potrà vedere coi suoi occhi e capire quali sono stati i dati scientifici attraverso cui questo racconto che avete riassunto si è espresso. Quindi ci saranno dei fossili originali, ci saranno dei calchi di ominidi, ci saranno degli strumenti di pietra dell'età preistorica, e quindi, come dire, riusciremo a ricostruire un po' come tutto questo è avvenuto. Diciamo che io ho fatto con lei la visita, è molto è impressionante veramente trovarsi faccia a faccia col nostro progenitore, cioè vederlo ricostruito. Che valore di autenticità quella ricostruzione! Uno vede prima un omino che ci arriva all'ombelico, poi uno grandissimo, enorme, quasi un gigante, poi vede una donna e li vede proprio come se li potesse toccare, che sono delle ricostruzioni reali, concrete. Sì, l'idea era proprio metterci fronte a fronte, faccia a faccia col nostro passato, e quindi queste ricostruzioni, che sono scientificamente molto rigorose perché sono tutte basate su documentazione fossile, quindi da come le ossa di questi ominidi sono state ritrovate, quindi si è immaginato come dovesse essere poi la forma corporea di questi ominidi, poi quando ci mettiamo di fronte a loro e ci mettiamo di fronte al nostro passato, un po' è impressionante vedere come l'umanità è stata diversa nel passato, quante umanità diverse sono convissute, e che la nostra Homo sapiens è solo una di queste, questo ultimo ramoscello del cespuglio evolutivo umano comparso circa 200.000 anni fa, e che è l'ultimo anello di una lunga storia di diversità, di spostamenti. In mostra i visitatori potranno seguire anche tutti gli spostamenti umani grazie a tutto un sistema di mappe che è stato creato ad hoc per la mostra. Una delle cose che mi ha sconvolto nella mia visita è una domanda che ci siamo fatti, la faremo con gli ascoltatori: com'è possibile che gli uomini, partendo dall'Africa, arrivino in quell'atollo dell'Oceania sperduto in mezzo al mare senza avere delle mappe, un geolocalizzatore? Beh, lo capiremo il 25, vedo che già una ventina, anzi 30 persone si sono già procurate il diritto di partecipare a questa grande passeggiata. La riprenderemo. Ringrazio il professor Barbugliani, ringrazio Stefano Moriggi, Stefano Papi, e ci risentiremo prima dell'avvento del grande incontro al MUDEC di Milano il 25.